Friuli nel mondo, 232esima trasmissione dedicata agli emigrati. Oggi, cari emigrati, è un nostro fratello che ha lasciato il Friuli 46 anni fa, portando seco un vigoroso bagaglio artistico-musicale che si presenta a voi. È Rodolfo Kubik che nella lontana Repubblica del Plata, dopo aver per anni insegnato in scuole ed accademie musicali, formato e diretto complessi orchestrali e corali, continua con ardore e passione giovanile, che importa se la settantina è ormai da tempo superata, a prodigarsi nel campo della musica e dell'arte, altamente onorando l'Italia e la Picciule Patrie. Sono ricordate le applauditissime esecuzioni corali che 3 anni or sono deliziarono gli ascoltatori di Udine, di Monfalcone, di Ronchi dei Legionari e di altri centri della nostra regione con il suo complesso Agrupación Coral di Buenos Aires. Ad iniziativa di alcuni amici del maestro Rodolfo Kubik, egli ritornò in Friuli nell'autunno scorso, ma non per starsene inoperoso in pur meritata vacanza. In poco più di 2 mesi riuscì ad allestire e preparare una serie di concerti che egli diresse avvalendosi dell'orchestra del Circolo Filarmonico Monfalconese e dei complessi corali Sant'Ambrogio di Monfalcone, di Chiopris e di un gruppo di coristi di Ronchi e di alcuni valenti solisti locali. Nelle composizioni che subito ascolterete, registrate durante il concerto svoltosi a Monfalcone il 28 novembre 1972, avrete modo anche di apprezzare il talento musicale di Rodolfo Kubik, quale compositore in L'Ismes Campanis. Le parole sono di Giuseppe Collodi. Soprano Ada Russo, tenore Giuseppe Botta. Thank you. Ed ora di Eddie Bortolussi e di Rodolfo Kubik, Tal Clar di Lune, Ada Russo soprano, Giuseppe Botta tenore, Pietro Poclen basso. Motivo tradizionale nell'arrangiamento di Rodolfo Kubik dal titolo Noto Caran Campanas. Soprano Ada Russo. Quando tu muoirà, tu toccherà campana, quando tu muoirà, tu toccherà campana. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.